L'Italia è giustamente preoccupata per le sorti di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna arrestato in Egitto e già sottoposto a torture, ma quello che verrebbe da dire è che l'Italia ha la sua responsabilità, specialmente nell'export di armi verso paesi che sono in guerra oppure che non rispettano i diritti umani. Per fare un punto della situazione, un quadro generale, noi siamo al telefono con Giorgio Beretta di Opal Brescia e della Rete Italiana Disarmo, che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io comincerei dall'Egitto. Quali sono gli affari italiani in fatto di armi? Sono andati avanti durante tutti gli anni 2000, ma in particolare sono cresciuti fortemente, nonostante il caso Regeni, l'omicidio di Giulio Regeni, proprio nel 2018, cioè nell'ultimo anno. C'è stata un'autorizzazione per l'esportazione di armamenti verso l'Egitto per quasi 70 milioni di euro, che tutto sommato non è una cifra enorme, ma sicuramente, ed è questo l'intento appunto del governo italiano, serve per mantenere aperto un contatto e per mantenere aperto appunto una serie di rapporti che poi possono servire per incrementare, per appunto sviluppare nuovi contratti. Non è un caso che proprio in questi giorni si stia parlando di una serie di nuove forniture di armamenti da parte dell'Italia all'Egitto per valori davvero molto molto consistenti. In qualche caso si arriva addirittura a parlare di qualcosa come 7 miliardi, se non 9 miliardi di euro di contratti, che vorrebbe dire sono navi sostanzialmente di pattugliamento, navi militari, le fregate FREM, ma anche aerei da addestramento, ma che possono essere armabili come gli aermacchi M346, e tutta una serie appunto di armamentario ampio che riguarda soprattutto, e questo è il punto, riguardano le due principali aziende a controllo statale, e cioè Leonardo, ex Finmeccanica, e Fincantieri. È proprio questa la questione, cioè si cerca di tenere aperto, anche con piccole diciamo commesse durante tutti gli anni, anche quando appunto, nonostante all'indomani dell'omicidio di Giulio Regeni, si cerca di tenere aperto questo canale, proprio per poi arrivare a fornire questi sistemi di armamento molto più pesanti e ovviamente molto più costosi, ecco. Tra l'altro non si tratta solo di forniture militari, ma si fanno affari anche sulle armi leggere con l'Egitto. Sì, in questo caso però sono sempre armi leggere in gran parte fornite, se non alle forze armate, alle forze di sicurezza. L'anno prima praticamente dell'omicidio di Giulio, dobbiamo ricordare che l'Italia ha fornito 30.000 pistole e poi dei fucili ARX appunto alle forze di sicurezza dell'Egitto. Non è una commessa di poco conto se uno pensa che in quel momento, eravamo all'indomani del colpo di Stato di Al-Sisi, da parte dell'Unione Europea c'era stata, e l'aveva voluta fortemente l'ex ministro degli esteri Emma Bonino, una sospensione dell'invio di armi. Quando appunto è cambiato il governo e la Bonino non c'era più al governo, il primo atto che è stato fatto è stato quello di inviare queste 30.000 pistole alle forze di sicurezza dell'Egitto. Io dico spesso che chi ha preso in consegna Giulio Regeni è molto probabile che avesse nella fondina una pistola italiana. Vicino all'Egitto c'è la Libia. Recentemente l'Italia ha rinnovato un memorandum che è stato molto contestato. Qual è la situazione? Ma sulla Libia si sta esportando molto poco. Nell'ultimo anno c'è un qualche valore, ma che riguarda sostanzialmente, da quanto abbiamo visto, sistemi di sminamento, perché c'è un sostanziale embargo verso la Libia da parte dei paesi dell'Unione Europea, almeno ufficialmente, ecco. Poi sappiamo che alcuni paesi come la Francia forniscono un po' di armi di qua e di là, e poi ci sarebbe la Turchia, però ovviamente non fa parte dell'Unione Europea. Però gli affari sono andati avanti fin quando è rimasto al potere Gheddafi. Non è un caso che anche in questo caso tutta una serie di 11.100 tra pistole e fucili della Beretta, che erano tutte stipate nel compound, nel bunker diciamo segreto appunto di Gheddafi, sono state tutte depredate dagli insorti. Lo certificano tutti i giornali internazionali, tra l'altro cremonese del Corriere della Sera, che era lì proprio in quei giorni e che ha visto portare via tutte queste armi, che poi vanno a finire appunto alla varie guerriglie. Quando ci chiediamo, no, chi sta armando i terroristi, dovremmo sempre chiederci chi sta armando i dittatori, perché se armi un dittatore c'è solo due possibilità: o che quel dittatore usi quelle armi contro la gente, o che appunto, come nel caso di Gheddafi, venga scalzato e quelle armi che erano state esportate a Gheddafi mafie vanno in mano appunto a gruppi terroristi, a gruppi di insorti, a gente che non sai. Questa è la questione. C'è un altro paese di cui abbiamo parlato insieme anche recentemente, che è la Turchia. E la Turchia, per l'Italia, la Turchia non è soltanto un paese di destinazione di armamenti, addirittura un partner diciamo di produzione. Già dagli anni 2000, dal 2007 c'è stata questa commessa per la produzione in Turchia degli elicotteri Mangusta, sostanzialmente nella versione appunto turca, una commessa per oltre 1,2 miliardi di euro, prodotti in loco, da cui sono partite soltanto alcune parti, per cui diciamo nessun introito, no, per le nostre aziende, o meglio l'introito per le aziende, ma nessun tipo di lavoro per i nostri lavoratori, perché sono state prodotte lì. E poi si è proseguito con tutta una serie di autorizzazioni, tanto è vero che anche negli ultimi anni la Turchia è sempre il primo paese della NATO a ricevere armamenti dall'Italia in questi ultimi anni. E quello che abbiamo visto poi di recente, andando proprio a spulciare, facendo un lavoro molto certosino sulla relazione della Presidenza del Consiglio, che dovrebbe appunto dire che tipi di armi vengono vendute, invece dice diciamo le tipologie generiche di armamenti, ma non dice niente nello specifico, abbiamo scoperto che ci sono almeno stati negli ultimi anni, negli ultimi due anni, almeno qualcosa come 200 milioni di euro di autorizzazioni per esportazioni di munizionamento pesante, e in gran parte sono attribuibili alla MES, che sarebbe Meccanica, Elettronica e Servosistemi, un'azienda praticamente sconosciuta nel settore, ma che di fatto produce questo tipo di munizionamento pesante. Puoi ben avere gli elicotteri Mangusta d'attacco al suolo, ma se non hai il munizionamento per usarli, servono a poco. E qui capiamo appunto l'importanza di questo tipo di esportazioni, soprattutto di munizionamento, sia pesante che leggero, perché sono poi quelli che di fatto fanno le guerre sostanzialmente, servono per combattere. Che ne è invece della situazione degli affari italiani con l'Arabia Saudita? E qui è un lunghissimo discorso che risale appunto già alla metà degli anni 2000, quando l'Italia ha cominciato a autorizzare l'esportazione degli Eurofighter all'Arabia Saudita, ma soprattutto l'abbiamo vista in questi ultimi anni con le esportazioni delle bombe RVM, bombe appunto MK82, MK83, MK84, a diciamo caduta libera sostanzialmente, di vecchia generazione, ma bombe che sono utilizzate ampiamente nel conflitto in Yemen, tanto è vero che addirittura gli esperti delle Nazioni Unite hanno trovato dei reperti, dei pezzi appunto di queste bombe con la sigla A4447, che vuol dire fabbricate in Italia, a Ghedi, Brescia, che vuol dire appunto che è attribuibile all'RVM Italia. Queste esportazioni di queste bombe soltanto sono state, diciamo così, interrotte dopo tre anni praticamente di proteste da parte di tutta la società civile, lo sapeva mezzo mondo, anzi tutto il mondo, ne ha parlato addirittura il New York Times di queste bombe, per cui sono state sospese le esportazioni di queste bombe, ma non è stata invece sospesa l'esportazione verso l'Arabia Saudita di altri sistemi militari che possono venire utilizzati nel conflitto in Yemen, e nemmeno in questo caso appunto di armi leggere, per cui tranne queste bombe che sono attribuibili alla RVM, che poi è un'azienda tedesca, anche se sono esportate con l'autorizzazione del governo italiano, ricordiamolo sempre, a parte queste bombe tutto il resto continua a essere esportato. Quali sono poi i principali altri scenari nel mondo? Sono tantissimi, davvero ci sarebbe da scrivere un'enciclopedia, un libro, io ce l'ho mezzo nel computer questo libro, perché è davvero tantissima roba che si continua ad esportare, ma in modo particolare soprattutto in questi ultimi anni abbiamo visto crescere le commesse, quindi le esportazioni e i contratti di armamenti con alcuni paesi del Golfo Persico, in particolare con il Kuwait, a cui appunto è stata autorizzata l'esportazione di numerosi 28 Eurofighter, che sono praticamente degli aerei appunto di intercettamento, ma anche sono dei caccia sostanzialmente, per un valore intorno ai 7,5 miliardi di euro, e poi appunto le corvette e altri sistemi di combattimento al Qatar per qualcosa come circa 5 miliardi di euro, quindi sono soprattutto ormai, e lo stesso gli Emirati Arabi Uniti, che a cui sono state vendute sempre in questi anni sempre appunto sistemi navali da combattimento, cioè sono soprattutto questi paesi del Golfo principali destinatari degli armamenti italiani, e tanto è vero che ormai da soli fanno più del 50% delle esportazioni di armamenti italiani. E evidenzio un fatto che non è solo l'Italia purtroppo Europa, ma anche altri paesi dell'Unione Europea. E questa è grandissima e fortissima la responsabilità di tutti i nostri paesi dell'Unione Europea a continuare a armare queste che sono praticamente delle dittature, delle monarchie, dove si parla dell'Arabia Saudita perché adesso le donne possono guidare, una benigna concessione del nuovo regnante, ecco, tanto per capirci, non è un diritto, rendiamocene conto. Ecco, a questi paesi, sia dove ci sono gravi violazioni dei diritti umani, a questi paesi che intervengono nei vari conflitti e nella zona, ma soprattutto paesi che secondo diverse fonti anche fomentano il terrorismo internazionale, se non direttamente, almeno indirettamente, ecco, l'Italia continua a vendere armamenti, e questo è davvero, non solo l'Italia ma anche altri paesi dell'Unione Europea, è una grandissima, fortissima responsabilità dei nostri paesi, oltre che degli Stati Uniti, che è il principale venditore di armi a questi paesi. Per quanto riguarda l'Italia, vale sempre la pena ricordare che la legge vieterebbe tutto questo. Certamente, proprio questo è il punto, però il punto va chiarito bene, cioè la legge pone, diciamo, un unico criterio sostanzialmente chiaramente verificabile, e cioè quello del qualora ci sia un embargo di armi verso il paese destinatario, imposto dalle Nazioni Unite o dai paesi dell'Unione Europea. In tutti gli altri casi richiede invece una valutazione da parte del governo, e questo è il punto. Cioè, a paesi dove ci sono gravi violazioni dei diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dice la legge, o dell'Unione Europea, ma se i competenti organi non accertano le violazioni dei diritti umani, non è che non ci siano le violazioni dei diritti umani, non c'è chi le accerta. Spetterebbe al governo italiano fare in modo, ai paesi dell'Unione Europea, di fare in modo di accertarle. A paesi in conflitto armato, certo, ma chi è che oggi più dichiara guerra? Nessuno. E quindi si interviene, come nel caso appunto dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, nel conflitto in Yemen, perché la giustificazione è quella che il presidente del deposto avrebbe fatto richiesta di un intervento militare ai paesi appunto dell'Unione Africana e ai paesi del Golfo Persico. Però di fatto non c'è nessuna legittimazione internazionale, ma siccome non c'è neanche nessun divieto internazionale, questo è il punto, il governo autorizza perché dice: se anche noi lo autorizziamo non siamo sanzionabili. È questa l'ipocrisia. Mentre la legge è scritta per chiedere al governo una valutazione seria della situazione, il governo, i governi in questi anni, non solo l'ultimo, ma gran parte degli ultimi governi, l'ha sempre interpretata nella maniera: se noi autorizziamo questa cosa siamo sanzionabili? No, e allora lo autorizziamo. E questo è il problema. Quindi c'è un divieto, è espressamente scritto nella legge 185, ma non c'è, diciamo, una sanzione, non c'è una verifica. Proprio per questo in questi anni, soprattutto nel caso dell'Arabia Saudita, Corretto di Sangue e tante altre associazioni, abbiamo fatto non soltanto un esposto ma anche una denuncia di tipo penale nei confronti appunto dell'autorità nazionale che rilascia queste autorizzazioni, perché noi invece crediamo che siano contrarie non solo allo spirito ma anche al mandato della legge, quindi anche alla lettera della legge 185. Grazie mille Giorgio per il tuo quadro, che ci aiuta molto bene a capire. È un quadro, sì, triste, però non demordiamo, voglio dire questo, ecco, quindi vi ringrazio molto per l'attenzione su questi temi, che è sempre molto importante, perché purtroppo si rischia di parlarne soltanto in qualche caso, e come ben sappiamo, no, viene quindi parlarne anche in questi casi, però dico, non entra mai nell'agenda del dibattito politico, non entra mai nell'agenda del dibattito nazionale, è sempre molto difficile, per cui vi ringrazio molto per sollevare l'attenzione su questi temi.